balzi sull'aura o tra alba fine, fine, e diventa il tramonto, sorto il sogno, sorto il sogno. Tono, tono, tono. Tono cobaltici in blu aura, il tramonto, sorto il sogno, strepiti di voce d'alieni in piume e luci, versetti, cordi leone, dizione della parola amore, un tono per Elisa, lieve, fuggitiva e fetida, ultima disastrosa, coprendo lacrima, d'assillo d'angelo, rimbombo, d'un solo, solo in demonio. Ottava arte, la poesia sonneggiante, sonetti di Goya esoterico, tristo, il tristo, albeggiati mie di spirito, savia sazia, or la lacrima, io mi avvio al mio decanto, in amore impulviscolo, tu nascici e amianto, tetto di cancro, il limite al blu, blu, sfornare milioni, milioni in blues, il limite al blu. Suonare, suonare milioni in loro, tono cobaltici, in blu hour, tra due fini e fini e diveni il tramonto, sorto il sogno, spiriti di voci, che avviene piume e luci, versetti cori di leone, dizione della parola amore, in tono per Elisa, lieve, fuggitiva, fetida, ultima disastrosa, coprendo lacrima, di un assillo d'angelo, rimbombo, di un solo di un demonio, ottava l'arte, la poesia, sonneggiante, sonetti di gioia esoterico, ottava arte, la poesia, sonneggiante, sonetti di gioia esoterico, tristo, il tristo, albeggiati mia di spirito, savio e sazio, or mi avvio al mio decanto in amor di pulviscolo, dashish e amianto, tetto di cancro e limite al blu, sfiorare milioni e milioni in blues, tono esoterico, tono cobaltico, in una blu hour, alba e fine, divenire tramonto, sotto il sogno, spiriti di voci d'alieni e piume.